La cosa stupefacente è come ha reagito Elisa, che non era mia bimba, a questa nuova cosa. Non ha minimamente dato segni di disagio, per cui nel giro di pochissimo tempo mi sono resa conto che capiva tutto quello che le dicevo. E ha iniziato dal fatto che io ho sempre avuto una passione per le lingue, per l'inglese in particolare. Abbiamo cominciato piano piano, poi man mano abbiamo aumentato finché ci è venuto naturale che fosse la lingua di casa. Ci sono giornate in cui uno arriva a casa stanco, non ha voglia e tutto, però rendersi conto di quanto loro assorbono, forse pensare alla quotidianità che non ha niente di straordinario, non che debba essere straordinario imparare l'inglese così, ma invece la voglia viene. Poi magari è normale per tutte le mamme d'Italia, perché comunque in qualche modo dobbiamo farcela. Now I know my ABC. Se conosci una sola lingua, vivi una vita sola, mentre per ogni lingua che parli hai una vita in più. Questo proverbio di origine ceca deve aver ispirato Arianna e Yvonne, due mamme italiane protagoniste di una piccola grande sfida: far diventare bilingue le proprie figlie, pur essendo loro e i papà di lingua madre italiana. Finché ho continuato a dire ma ce la farò, non ce la farò, ero titubante, avevo mille dubbi più che leciti, credo. Nel momento in cui ho detto ma sì, proviamo, tanto è un gioco, deve essere veramente un gioco, se poi vedo che non mi sento a mio agio, voglio dire, non è mica successo niente di grave. E invece io mi sono sentita proprio a mio agio. Da una parte, alle volte dico, mi è sembrato di rinascere, di tornare ai tempi dell'università, quando studiavo all'estero e parlavo inglese tutti i giorni. Questo problema me lo facevo, il problema dell'accento, il problema che magari un madrelingua parlasse meglio di me. Cioè, prima di arrivare al fatto che potevo farlo io, avevo un sacco di paure. Però ecco, con le mie figlie ho avuto proprio l'occasione di rafforzare questo contatto con l'inglese. Ovviamente la cosa critica che ti trovi a dover fare come mamma è gestire per esempio il capriccio di un bambino. Io ritengo che quando gli stimoli sono positivi, quando sono venuti naturali a te, quando tu ti diverti con loro, non c'è niente che possa fare male. Fa male quando tutto è focalizzato sul risultato. Quello del bilinguismo indotto è un fenomeno in crescita in Italia. Punto di incontro per chi vuol far crescere i propri bambini poliglotti è Bilingue per Gioco, seguitissimo blog fondato da un'altra mamma, Letizia 40. Il progetto nasce più o meno con la nascita del mio bambino, che è successa 4 anni fa. Io fino ad allora avevo sempre lavorato all'estero. Quando è nato il mio bambino sono tornata in Italia e ho deciso di crescerlo bilingue, in italiano e in inglese, e tutto funzionava anche, devo dire, serenamente, però mi mancava l'occasione condividere l'esperienza con altre persone, perché poi appunto questa cosa di crescere bambini bilingui non è poi così scontata, i mille dubbi quotidiani, piccoli o grandi, ci sono sempre. Da questa esigenza personale è nato il blog, che è diventato man mano un punto di incontro per tutte le persone che hanno esperienze simili alle mie, quindi le coppie miste, le famiglie espatriate, gli stranieri in Italia, sempre di più anche persone che hanno una passione per le lingue, semplicemente perché vedono nelle lingue una risorsa importante per sé e per i propri figli. Da questa e queste esperienze personali e poi da alcune collaborazioni anche con chi fa ricerca sul bilinguismo si è sviluppato Bilingue per Gioco, che adesso è un progetto molto ampio, insomma un blog che ha molto seguito, fa più di 60.000 views al mese, da cui sono nati anche i gruppi di gioco. Per ora solo in inglese, ma presto spero anche in spagnolo e in francese per i bambini. Quindi è diventato quasi un lavoro per te. A un certo punto io ho dovuto decidere. Bloggavo di notte, però non ce la facevo più. Quindi ho deciso di lasciare il mio lavoro, che era tra l'altro un ottimo lavoro, che ho deciso di seguire la mia passione, il mio progetto, e adesso mi concentro solo su questo. E che riscontri hai avuto tra i genitori che seguono questo blog? Bellissimi, devo dire la verità, nel senso che i genitori che frequentano Bilingue per Gioco sono persone estremamente positive, crescono dei figli che possono essere una vera risorsa per questo paese, quindi bambini che vengono cresciuti con molta apertura mentale, in realtà non è mai solo la lingua. Io devo dire, io dico sempre, il mio obiettivo è realizzare in Italia quello che avviene spontaneamente nei paesi nordici. Nei paesi nordici tutti parlano benissimo l'inglese. Perché? Perché hanno la televisione non doppiata, perché se vogliono cercare informazioni in internet nella loro lingua trovano comunque poco e quindi alla fine l'inglese è una risorsa quotidiana. In Italia questo non si può realizzare in maniera spontanea perché la situazione è quella che è. Però il genitore che vuole farsi coinvolgere, fare entrare una lingua nella propria casa, oggi ha tantissimi strumenti e tantissimi gratuiti a disposizione. E in questa maniera i bambini e i genitori crescono con la lingua in casa in maniera spontanea, a parte della vita quotidiana, senza che ci sia la pressione di dover imparare. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrer. Scuole di bilinguismo, scuole internazionali, babysitter alla pari, percorsi di ogni genere anche a partire dai pochi mesi di vita, perché poliglotti non si nasce ma si diventa, un impegno che vale comunque la pena perché il bi o multilinguismo non solo rappresentano un bagaglio in più ma contribuiscono allo sviluppo di una sensibilità percettiva che va oltre le lingue conosciute. Tutto sta però nell'apprendere le lingue nei primissimi anni di vita e nel modo più naturale possibile. Il tasto dolente però rimane ancora la scuola, con un insegnamento affidato troppo al fai da te, con insegnanti poco preparati anche per via dei tagli che hanno portato ad una diminuzione degli insegnanti specialisti, come ci conferma Gianfranco Porcelli, che per lungo tempo è stato presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere. Io ho un giudizio piuttosto pesante, ma non tanto sulla scuola italiana, ma sulla cultura italiana in fatto di lingue. Fino a pochi decenni fa, forse a pochi anni fa, né la maturità classica né la maturità magistrale portavano la lingua straniera all'esame che ora si chiama esame di Stato, ma all'esame finale di scuola secondaria, che vuol dire che molte persone che sono ai vertici della cultura, della politica, dell'economia, eccetera, si vantano di conoscere il greco antico e non si vergognano di non saper spiccicare una parola in una lingua che non sia l'italiano. Altro dato, l'Italia è uno dei paesi in cui tutto quanto viene doppiato, ma non soltanto i film, ma anche le interviste trasmesse per radio e per televisione, c'è subito la sovrapposizione della voce del traduttore, cioè in Italia vengono negati i contatti con la cultura straniera e con la lingua straniera in una molteplicità di modi. Allora, se si tiene conto di questo, è abbastanza naturale, anche se è tragicamente vero, che le lingue non sono insegnate abbastanza, non sono tenute in sufficiente considerazione. Le facoltà di lingue ormai sono diventate una cinquantina, ma non dappertutto c'è obbligatorio l'insegnamento di metodologia dell'insegnamento linguistico. Tutti gli esperti del settore sono d'accordo nel dire che non c'è sufficiente spazio e attenzione alle lingue. Per quanto riguarda invece la preparazione degli insegnanti nelle scuole? In alcuni casi sono, direi, vergognosamente insufficienti, si è parlato addirittura per alcuni casi nella scuola primaria anche di corsi di 50 ore, di cui anche metà nemmeno in presenza, quindi con la possibilità di dialogare, ma gestiti online in vari modi e non ci si improvvisa parlanti di un'altra lingua. E nel confronto con gli altri paesi europei, come siamo messi? Abbiamo girato la domanda a Raffaele Gallus, membro dell'antenna della Direzione Generale della traduzione della Commissione europea. L'ultima indagine di Eurobarometro del 2006 indica che i paesi meno multilingui dell'Unione europea sono purtroppo l'Irlanda, il Regno Unito e l'Italia. Infatti sono i paesi dove l'Irlanda è il 34%, il Regno Unito il 38% e l'Italia il 41%. Dei cittadini appena parla una lingua straniera. Intanto però l'Unione Europea si muove con delle iniziative, tra cui la Giornata Europea delle Lingue che si è celebrata da poco. La giornata nasce in realtà nel 2001, quando fu l'anno europeo delle lingue. L'Unione Europea e il Consiglio d'Europa decisero di festeggiare ogni anno le lingue il 26 settembre. l'Europa possiede un enorme tesoro linguistico, si parla di 23 lingue ufficiali, ma anche di 60 comunità autoctone che parlano lingue regionali e minoritarie, quindi un'immensa ricchezza linguistica che ogni anno viene festeggiata. Mamma è mia Olivia, mi vie po' polsco e po' rispensco. Je parle français, je parle anglais et je parle espagnol.